La Lega avanza nelle aree specie dell'area pedemontana, fuori dalle grandi aree urbane. A Milano non sfonda, nella città di Milano. Il Partito Democratico tiene fuori e avanza anche complessivamente in Regione Lombardia. Facciamo un risultato che migliora il risultato nonostante questa avanzata della Lega, nonostante ci fosse un candidato che si ripresentava per la quarta volta e quindi forte di un lungo periodo di governo. E in più riconfermiamo il dato che in provincia di Milano e particolarmente, ma devo dire anche nella generalità della provincia di Milano, ma in particolarmente nella città di Milano c'è la possibilità di giocare una partita in cui il centro-sinistra non solo si conferma competitivo, ma credo che qualche problema lo ponga anche al centro-destra, se lo stiamo già ponendo in questi momenti.